cioè quello che ha fatto Mussolini praticamente. Mussolini ha fatto un omicidio plurimo colposo nel corso del suo ventennio. Va bene, abbiamo finito di parlare. Buonasera. No, per cui, perché, avvocato? No, ma perché, avvocato Sinatra? Scusi, perché? Ho superato l'età per gli, per no, gli scherzi cretini e di cattivo lo faccio gusto. Stare zitto. Mi faccia parlare. Lo faccio stare se zitto. Non si permetta mai più di chiamarmi. Lo faccio stare zitto. Lo faccio stare zitto. Ma qua, non so, ma io che c'entro? Ma io che c'entro, avvocato? La zanzara. Tutto il resto è gioia. Va bene, abbiamo finito di parlare. No, non ho detto gioia. Lo faccio Capone, stare zitto. Ma qua, non so. Ma io che c'entro? Ma io che c'entro, avvocato? Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla. Guarda qua su, e da paura siete tantissimi. Buongiorno popolo di Pontida! È meraviglioso vedere quanto è grande la famiglia della Lega, perché la Lega è una grande comunità fatta di uomini e donne per bene, guidata da un grande leader che tutto il mondo ci invidia, il grande Matteo Salvini! Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla. Bocciato. Come i pini di Roma. Bocciato. La vita non li spezza. Come mai? Questa notte è ancora nostra. Salvini, ma lei fa i bocchini. Ma come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati? Oh. Le bombe delle sei non fanno male, è solo il giorno che muore. Donato! È solo il giorno che muore. Nicolas mi dice la canna da pesca infilala nel culo. Non mi interessa un cazzo! Ma è vero che sta vendendo la cameretta della figlia per... Ho già venduto. Oggi pomeriggio l'ho venduta a 400 euro, tre letti. Ha venduto la cameretta della figlia. A Villa Doria Panfili qualcuno che gli vada lo stuzzichino di traverso. Che gli vada lo stuzzichino di traverso! Lo diciamo qui, fuori dal coro, perché altrimenti non ve lo dicono. E in più, tu sei giudeo. E i tuoi antenati falegnami hanno fabbricato la croce dove hanno inchiodato nostro Signore Gesù Cristo. Posso essere ancora un po' incazzato per questo fatto? Ma certo, eccellenza. Lo senti. Stanno creando falsi profili a nome Silvana De Mari. Sì. I miei unici due profili sono questo, Silvana De Mari e Silvana De Mari Blog. Li riconoscete perché compaio nelle dirette. Le dirette posso farle solo io. E sti cazzi! Questa è l'Italia! Questo è il nostro paese, caro Parenzo. Monterosa 91, 20149 Milano. Questa è l'Italia. Questa è l'Italia. Dagli studi di Roma, non so per quanto. Questo è il nostro paese, inutile che ti illudi. Questo è il nostro paese, un paese di cialtroni, un paese di chiacchieroni, un paese di cazzari, un paese che fa uscire un personaggio come Carminati, certo, no, per no, i termini di legge dal carcere, un paese che ha il generale Pappalardo, che sta fondando un nuovo partito, un paese che ha diversi personaggi che formano partiti, il brasiliano che forma un partito, borgate e famiglie. Questo è il nostro paese, è inutile che ti illudi, non ti illudere che ci sia un paese migliore. Questo è il nostro paese. Questa trasmissione fotografa quello che accade nel paese, quello che accade nella nostra Italia. Non ti illudere che possa andare meglio, non ti illudere. Io qui voglio salutare, voglio ringraziare innanzitutto alcuni signori, alcuni scienziati, pochi. Bisogna dire grazie per averci tolto dalla testa il terrore. Non credete a quello che ascoltate anche in questa radio. L'aumento dei contagi è una roba finta, falsa, un racconto falso di quello che accade. falso, falsissimo. Voglio abbracciare qui e ringraziare persone come Zangrillo, come Bassetti, per esempio, ecco un signore di Genova, ecco un infettivologo, ecco non un virologo. Che marchette? Ecco marchette. Ma ecco quando mai? Marchette. Assolutamente ecco non lo conosco. I catastrofisti saranno delusi, ecco tutta la verità sui contagi. Sta continuando la rapida discesa dei casi ospedalizzati, di gente che va in ospedale. Voglio ringraziare queste persone perché anche dalla mia testa hanno tolto l'idea del terrore. Libertà, libertà, libertà. Basta con queste cazzate dei titoli che sentiamo. Aumentano i contagi, sono puttanate. È tutto finito. Libertà, con precauzioni, piccole precauzioni, ma è finito. Nessuno va più in ospedale come prima. Avete rotto il cazzo ogni giorno con queste notizie. Anche qui in questa radio aumentano i contagi. Avete rotto i coglioni. Chiaro o no? Non è così. Parlate solo di quelli che vanno in ospedale, non dei nuovi contagi. Viva Zangrillo, viva Bassetti. Basta, ho finito l'editoriale, andiamo a fare in culo. Cosa? E intanto quello sta zitto. Che cazzo quello sei che qua avete a fare? Sentito, cosa stai qui no, a fare se stai zitto? Mi sono alzato in piedi perché volevo capire fino a che punto, fino a che punto saresti arrivato. Appello all'editore di questa radio che nel corso di questi anni ha lasciato libero impazzare, libero Cruciani senza tenerlo al guinzaglio con alcuna museruola, gli ha fatto meno dire male. Qualunque cosa, meno ha male. Contribuito alla distruzione economica di questo paese. Amici della Confindustria, riprendete in mano la vostra radio, direi la nostra radio a questo punto, riprendetela in mano e consegnate Cruciani a quell'abisso radiofonico che ha creato. Rimandatelo in quelle spelonche, rimandatelo in quei luoghi nei quali può trattare il suo squirting, nei quali può trattare le interviste con i suoi neonazisti, nelle radio nelle quali potrà far parlare liberamente dei pazzi che ritengono che il vaccino sia frutto degli alieni. Non è più possibile dare spazio a quest'uomo nella nostra radio, quella degli industriali, quella radio che ha reso grande e immenso questo disgraziato paese. Ma vaffanculo, va. Allora, intanto da Giordano giustamente giustamente dice Cristoforo Colombo è razzista. E adesso arriverete ad attaccare anche. Perché non te la sei presa con Cristoforo Colombo? Perché non proponi una statua anche per gli indios? Perché che cazzo ne so, per i nativi americani? Ma non è un razzista, Colombo, nel 1492. Siete una vergogna, siete una vergogna. Voi il politicamente corretto del cazzo, tu che vuoi fare le statue non so per chi, per l'etiope. Ma vaffanculo, ma chi se ne frega di queste stronzate? La statua di Montanelli tutta, ma quale statua per Destà? Destà ha fatto la sua vita, non so chi cazzo è sta Destà, l'etiope che si è fatta Montanelli e va bene, ma è successo 70 anni fa, ha pure fatto un figlio che ha chiamato Indro, vaffanculo, dai! Donato! Donato! Terra, che? Terra! Bellissimo, con la nave, con la caravella! Terra, Donato! Con la caravella lì studio, me la sono presi con Cristoforo Colombo! Cristoforo Colombo, il nostro eroe, la Nina, la Pinta, la Santa Maria, il nostro mito Cristoforo Colombo, niente è razzista, è un mondo impazzito, hanno abbattuto le statue, fai vedere Donato, no non ci credo, in America giù le statue decapitate, rovinate, abbattute, bruciate, bruciate Donato, Cristoforo Colombo, la terra, niente, a terra vanno le statue. Non prendetevela con una statua e con una cosa successa 100 anni fa, prendetevela con quello che succede oggi nei paesi islamici. In tanti paesi islamici la segregazione della donna, le donne lapidate, l'infibulazione, le donne martoriate, le ragazzine martoriate. Andate davanti alla bella ambasciata dell'Iran e li manifestate se avete le palle, non con la statua di Montanelli. Addio. Allora ragazzi, vi posso dire una cosa, caro David, ha perfettamente ragione Giordano, ovviamente, che hanno creato un'altra task force, una task force ma di nessuno cui fa difende parte... l'abbattimento zitto, della statua di Cristoforo Colombo, che non dire... stai zitto che ho l'adrenalina addosso. Allora, posso dirti una cosa, hanno creato un'altra task force, un'altra di cui fa parte l'infettivologo Galli, quello che va sempre in televisione, no? Vabbè, sì. Quello Massimo Galli, quello del sacco di Milano. Bravissimo, quello un'altra molto competente. Task force, un'altra task force, io l'ho visto più in televisione che altrove, ma comunque lasciamo perdere. Signor Massimo Galli. No, che canto. Dice Galli che anzi dice Galli, hanno creato una task force sul sesso, cosa non si può fare col Covid, che cosa si può fare, chissà perché è sponsorizzata dalla Durex, quella che produce i preservativi, questa task force. Voglio dire a questi signori che ci hanno rotto i coglioni anche loro, abbiamo ricominciato a fare come cazzo vogliamo noi, basta con queste stronzate, cosa si può fare, cosa non si può fare col sesso, ritorniamo a scopare esattamente come prima, fottendocene di queste robe qui, sconosciuti, non sconosciuti. Chi è che oggi si occupa, ha paura di scopare con una persona che conosce lo stesso giorno? Nessuno, perché è giusto così, bisogna tornare esattamente alla vita di prima, esattamente all'inizio di marzo. Conosci uno in un posto, se sei donna, ci scopi senza preoccuparti. Hai il virus? Non hai il virus? È asintomatico? Ma si può campare così, secondo te? Si può ancora campare così? A cosa serve la task force? Sei un irresponsabile, perché quello che sta avvenendo in Cina in queste ore... Ma chi se ne frega della Cina? Non me ne frega nulla. Sei un irresponsabile. Un irresponsabile. C'è chi la sceglie per il suo stile, chi per la tecnologia. Io la scelgo per avere tutto. Ripartiamo dall'Italia e dai prodotti italiani. Con Drive Forward, nuova gamma Alfa Romeo Giulietta da 179 euro al mese. Zero anticipo e zero rate nel 2020. Da gennaio 18 rate da 179 euro, poi 72 rate da 288 euro. TAN 675, TAI GOT 44. Iniziativa valida fino al 30 giugno. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Info su alfaromeo.it. La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Via! Da questo canale! Ciao, sono Gabbo da Roma e mi faccio più canne che posso. I love my radio. Ciao, sono Jason da Busto Garolfo e anche io vado solo con le ciccione. I love my radio. Sono Federico da Bologna e anch'io vado a trans. I love my radio. Boris, bianchissimi i denti, Boris. Devo togliere un po' di tartaro che è rimasto, così il mio alito è profumatissimo. Io potevo essere stipendiata. Intanto dice sempre Giordano, Ma cos'è il profeta Giordano? Che roba è? Intanto dice sempre Giordano, mentre il paese è in mezzo alla merda, mentre il paese è in mezzo alla cacca e ci sono persone che non ricevono la cassa integrazione, per esempio recluta questa Elisa che dice: ho venduto la cameretta di mia figlia. Mentre lì fanno gli stati generali, invitano i potenti del mondo, ci sono persone che non ricevono la cassa integrazione, questo è giusto. E fa venire in televisione una per pochi secondi Elisa a dire: ho venduto la cameretta di mia figlia. Questa è la realtà, caro Freccero, è mostrare una che ha venduto la cameretta di sua figlia. Certo, forse lei dice ci vorrebbe il suicidio, a questo punto la pistolettata, direi, no? La pistolettata in diretta ci vorrebbe. Troppo poco vendere la cameretta della figlia, roba già sentita, già visto, banale. Che cosa ci vorrebbe? Una cristiano, che... E che cosa ci vorrebbe di più? Una che dà una pistolettata, si dà una pistolettata in testa, cosa ci vorrebbe? Naturalmente questa grande ipocrisia di non raccontare mai la morte. Ho capito, che ma che è l'unica cosa più? Che fa ascolto, naturalmente. Provo a spiegarlo a tutti. La cameretta, ma una roba da Montalbano, la cameretta. E cosa ci vorrebbe? Questa che si dà una pistoletta in testa, dici? Questa qua che a un certo punto si suicida. Naturalmente, la vera frontiera, naturalmente, è quella di riprendere in presa diretta i grandi delitti, naturalmente, i grandi fatti di criminalità. I suicidi in questo caso. Cioè. Quello funziona, naturalmente. Uno che è sul balcone, naturalmente, deve dire mi butto, il popolo decide. Perché non ricevo la cassa integrazione. Devi mandare, naturalmente, la pubblicità prima che si butti, naturalmente. Con la foto di Tridico. Drammatizzare il dramma, il pathos, naturalmente. La costruzione deve prevedere, naturalmente, un climax. Cioè, uno che deve ricevere la cassa integrazione, la foto di Tridico, si deve buttare o non si deve buttare? Si deve suicidare o no? Contestualmente, naturalmente, sentire tutti, naturalmente, tutti i parenti, grandi telecamere, naturalmente, racconto, naturalmente, spin-off, diremmo televisivamente, no? Del racconto. Elisa e la cameretta. Dai. Ma è vero che sta vendendo la cameretta della figlia per... Ho già venduto. Oggi pomeriggio l'ho venduta a 400 euro, tre letti. Dramma, però. Ha venduto la cameretta della figlia. La senti la voce di Giordano? A Villa Doria Panfili, qualcuno che gli vada lo stuzzichino di traverso. Che gli vada lo stuzzichino di traverso! Ma cosa vuol dire? Santo cielo! Ma è troppo poco! Mario, voglio il suicidio! Basta con queste camerette, voglio il suicidio di un casino! Ma non riesco a capire qual è il nesso tra la tartina che non c'è, a Villa Doria Panfili e il dramma della signora che vende la cameretta. Ma come si... Ma che roba è? Che modo è di fare informazione? La prossima volta voglio, ma non quello non è teatro. Prossima volta no, è teatro sulla pelle di quella povera signora. Voglio però il suicidio. La prossima volta troppo poco la cameretta. Uno che vende la cameretta, che cazzo è uno che vende la cameretta? Voglio uno che prende una pistola, si dà una pistolettata in diretta. In diretta. Intanto c'è un leghista che si chiama Marcato, che tu conosci, caro David. Sì, è un dramma in Veneto, signor, il quale esulta, è contento, credo. Dice che c'è una bellissima giornata. Che cosa? Il fatto che abbiano arrestato e dato 30 anni a una ladra rom che evitava il carcere perché si è fatta mettere incinta non so quante volte, era sempre gravida, diciamo, la signora rom, 30 anni ha preso, alla fine cumulo di pene, 30 anni, che mi sembra, insomma, una condanna pesante, nemmeno gli assassini spesso, però cumulo di condanne, 30 in galera, e lui esulta. Fantastico, meraviglioso, straordinario. 30 anni di carcere alla ladra rom che a Venezia, se vi ricordate il caso, aveva reagito violentemente contro l'inviato delle Iene. 30 anni di carcere hanno dato, 30 anni di carcere. Dopo essere stata condannata per 12 volte e non aver mai fatto un giorno di carcere perché per 12 volte lei era incinta, ha commesso reati di tutti i tipi e lei continuava indisturbata qui a Venezia a rompere le balle ai turisti. Ecco, finalmente è arrivata la giustizia, 30 anni di carcere alla ladra rom per aver rubato per anni, giornata meravigliosa, bellissima, straordinaria, grazie. Oggi è una giornata di giustizia. Beh, amico mio, cos'hai da dire nei confronti del signor Marcato? Dico la cosa molto semplice. Cos'è una vergogna che un consigliere regionale o assessore della Lega, vabbè, questo politico, non lo so, eccetera, non un politico qualunque, c'è, cioè, un signore che Lega, sì, allora si esalti così tanto per la condanna a una persona e invece, ad esempio, non parla delle inchieste che ci sono in Lombardia per quanto riguarda la sanità. Ora, mettersi a esaltarsi per l'arresto di una persona, una ladra rom, lascia stare ladra, una ladra che è imperversato, esaltarsi vabbè, in quel modo per un arresto. Sei dalla parte della ladra rom, benissimo. Non è che uno è dalla parte della ladra rom. Abbiamo capito. Infatti, ti è venuto. Non è che uno è dalla parte della ladra rom. Se difende un principio che non devi distruggere le persone. Devi distruggere le persone. Questa ha rubato per una vita. Siccome è un criminale, merita. Siccome è una pseudo criminale, merita la gogna di quel politico lì. Quella che cazzo gliene frega. Quando fu arrestato Galan, Veneto, che cosa disse il signore della Lega? Ma che smetti. Cosa disse? Daniele da Roma, vai Daniele. Vai Daniele, dimmi Daniele. Dottor Cruciani, userò questo prezioso tempo che lei mette a nostra disposizione. Sì. Innanzitutto per fare una domanda aperta. Dimmi, dai, veloce, Daniele, su. Dai, io per arrivare a una conclusione devo fare delle premesse. Ma qui allora vai a porta, vai da qualche altra parte, non rompi i coglioni, dai, su, dai, forza, dimmi. Allora, col senno di poi, io voglio chiedere a voi e magari anche a qualcuno che interverrà. Dimmi. Il Covid è stato, o sarà una minaccia per l'umanità? Non lo so, amico mio, ma che domanda è? Ma che domanda è? Ma che domanda è? Che l'argomento? Ma no, ma fammi una domanda diretta, fai una considerazione chiara, semplice, altrimenti vai a dibattere nei talk show alla Parenzo, che male c'è il talk show alla Parenzo? Ma non sono le parolacce, ma vai diretto, C'ha ragione anche lui. Io sto diretto. Ma hai rotti i coglioni, aspetta, no, Andrea da Reggio Emilia, ma hai rotti i coglioni, dimmi. Lo so, ma hai rotti i coglioni, Andrea, dimmi. Ciao, Parenzo. Dimmi. No, per una volta io ti ho sempre dato contro, però oggi sono d'accordo con te, soprattutto quando hai fatto quell'introduzione del paese reale, il paese vero, quello che raccontate voi. Infatti, ma figuriamoci. Infatti questo qua è il paese dove Vittorio Feltri fa la prefazione a un certo Mirko Scarcella, e alle viene cioè un truffatore, cioè capito il paese? E allora sono cazzi suoi. No, approfondiamo questa cosa. Che credibilità può avere uno che pubblicizza un fake, un finto, un truffatore? Bravo, bravo. Vittorio Feltri. Approfondiamo questa cosa. Non ho capito, ma chiedi a lui, cretino, chiedi a lui. Ma che vuoi da me? Ah, perché toccano il tuo amichetto, allora non ne vuoi parlare. Vuoi insabbiare il libro di Scarcella? Vuoi insabbiare una storia vergognosa? Vuoi insabbiarla? Ma la verità è venuta a galla finalmente. Tu la vuoi insabbiare? Ma sai quante prefezioni sono state fatte a persone condannate? A persone discusse, e che noi cazzo dobbiamo fidare delle notizie di Vittorio Feltri? Ma fidati di chi cazzo ti pare, ma vai a... ma io non pubblicizzo nessuno, ma io, non, no, io invito, sì, allora e qual è il problema? E allora qual è il problema? Carta bianca, carta ma quale carta bianca? Se litiga una volta sì e l'altra pure con Parenzo, che dici, cretino? Come dice Parenzo, tu gli dici, ah sì, signor Vittorio Feltri, ma lei cosa ha fatto? Vergognoso. Ma non rompere i coglioni, cretino. Fermo là. La verità è venuta a galla. Il segnale orario vi è offerto da Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. Ciao, siamo le radio italiane, tutte insieme per costruire la più grande avventura del 2020. I love my radio. Aiutaci a scegliere la più bella tra le canzoni italiane che abbiamo suonato dal 1975 ad oggi. E guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po'. 45 successi firmati da 45 grandi artisti. Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi. Alla fine dell'estate celebreremo insieme con un evento speciale la storia della radio e della musica italiana. Ti sembra normale che resti svegli a corteggiarti per ore? I love my radio. Tutte le radio unite per l'Italia. Vota la tua canzone preferita su ilovemyradio.it. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... C'è chi la sceglie per il suo stile, chi per la tecnologia. Io la scelgo per avere tutto. Ripartiamo dall'Italia e dai prodotti italiani con Drive Forward, nuova gamma Alfa Romeo Giulietta da 179 euro al mese, zero anticipo e zero rate nel 2020. Da gennaio 18 rate da 179 euro, poi 72 rate da 288 euro, TAN 675, TAI GOT 44. Iniziativa valida fino al 30 giugno. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Info su alfaromeo.it. La Zanzara. Oh, comunque la puntata di ieri sera c'è stato uno sputtanamento della famiglia Cruciani, si è scoperto che sono dei tirchi de merda, mamma mia, nessuno tira fuori i soldi. Oh, tiratagli fuori i soldi a questo, se no vi rompe i coglioni e vi comincia a fare scherzi telefonici, sono cazzi vostri se non gli fate fare sta piscina, dai un po' su. Appello ai parenti di Cruciani, per favore dategli il contributo piscina, almeno qualche volta l'anno si lava e farà un po' meno schifo. Giuseppe, ti stupisci dell'anziano che ha avuto i coglioni incastrati nel seggiolino? A me è capitato, dormendo nudo, di alzarmi dal letto, sedermi sul bordo del letto e senza accorgermi i coglioni si incastrano tra il telaio del letto e il materasso. Alzarmi di scatto, ancora un po' mi strappo i coglioni. E non è detto che non possa ricapitare. Porca di quella puttana. Boris! I corpi appesi, i corpi chiusi condannano a morte migliaia di persone. Molti di voi avranno già ascoltato questo lapsus di Salvini al Senato. I porti chiusi fanno morire un sacco di persone. Rivelatore. Ovviamente è vero il contrario, che i porti aperti fanno morire. I porti aperti fanno morire perché aiutano il traffico di immigrati. Non ma è una vecchia proprio. Questione. La vostra tesi sovranista mi pare debole ormai. Mi pare una tesi molto molto debole ormai. Molto debole, molto. Inventatevi qualcosa di meglio. Ma che cazzo dici? Ma non inventatevi, inventati qualche parola d'ordine migliore. Ma ormai non lo so, ma non è una parola d'ordine lisa questa che avete. Non faccio parte di quella banda che dici tu. Di quella banda che, di cui tu parli di continuo. Non faccio parte di alcuna banda. Intanto, amico mio, ti segnalo che il signor Carminati, uscito dal carcere, a proposito, ha detto di banda, ho diritto a proposito a di banda, essere un uomo libero, così ha detto il signor Carminati. E tu sai che cos'è? Cos'è sta roba? Una tristezza così. Ma che sta roba è? Ma che roba è? Ma che roba è? Ma chi se ne frega? Perché? Che cos'è? Sei impazzito. Non c'è nessun collegamento con nulla. Così la parola banda ti ha fatto venire in mente. La banda è subito la nuova trasmissione interattiva. Dai, che bello, con le parole chiave. Senti che roba, come funziona. Una tristezza così non la sentivo da mai. Ecco, anch'io però. Anch'io. Senza controllo sanitario. Noi vogliamo ricordare Carminati, però non per la questione in carcere, non in carcere. Massimo Carminati, Massimo Carminati, eccetera. Ma per una straordinaria telefonata, una meravigliosa telefonata alla contessa De Blanc. Stupendo. No, prego. Pronto? Io mi chiamo Massimo Carminati, sentitelo sto nome. Eh? Io mi chiamo Massimo Carminati, sentitelo sto nome. Pronto, parla più forte perché non sento. Massimo Carminati, segnalo. Capito? Segnatelo. Chi? Massimo Carminati, segnalo. Capito? Segnatelo. Perché me lo devo segnare? Massimo Carminati, segnalo, così vai su internet e vedi chi sono io. No, scusa, tu mi hai chiamato con un numero nascosto. Che cosa mi segno? C'è scritto segnalo il tuo nome, ascolta a me. Così vai su internet e senti e sai chi cazzo sono io. Io non ce l'ho internet e poi tu sei un perché non mi segno proprio niente. Io sono quello che abita là. Pronto? Io mi chiamo Massimo Carminati, sentitelo sto nome. Ma a me non me ne frega proprio niente chi sei. Ma che me ne frega a me? Ascolta a me, così vai su internet e senti e sai chi cazzo sono io. Io non vado su internet perché internet non ce l'ho. Non mi frega niente di sapere che sei, che vuoi da me. Massimo Carminati, segnalo, così vai su internet e vedi chi sono io. No, non ci vado su internet perché non me ne frega niente di conoscerti. Che vuoi? Segnalo sto nome, ascolta a me. Così vai su internet e senti e sai chi cazzo sono io. No, io non vado su internet, non mi segno proprio niente. Voglio sapere che vuoi. Che vuoi? Se mi venite a fare l'impianto, bene, se no non me ne frega un cazzo di niente, capito? E vuoi? Se non mi attaccate al telefono entro domani, a me non me ne frega un cazzo, vado su spazio. Poi venga a cercare te. Ma con chi stai parlando? Ma con chi credi di parlare? Hai sbagliato numero, eh? Io sono quello che abita là. Dove? Hai sbagliato numero. Se non mi attaccate al telefono entro domani, a me non me ne frega un cazzo, vado su spazio. Poi venga a cercare te. Segnalo il tuo nome, accanto a me, lui paga l'internet e sai chi cazzo sono io. Sei fumato? Massimo Carmina, disegnalo così, vai su internet e vedi chi sono io. Sei fumato? Hai io sbagliato? Sono quello che abita là. Con chi credi di stare parlando? Scusa, con chi, a chi hai chiamato? Hai sbagliato numero. Io mi chiamo Massimo Carmina, disegnatelo sto nome. A me non me ne hai fatto un cazzo di chi sei. Tu hai sbagliato numero, sai che? Chiama, stai parlando con un'altra persona che non è quella che vuoi chiamare tu. Ascolta a me, così no. Vai su internet e senti e sai chi cazzo sono io. E dai, ma chi se ne frega? Chi ti conosce? Io non ti conosco, non voglio sapere chi sei, non me ne fotte un cazzo, hai sbagliato numero. Non pianto bene, se no non me ne frega. Pronto, hai capito che hai sbagliato numero, stronzo, e vai a fare. Ascolta a me, così no. Vai su internet e senti e sai chi cazzo sono io. La contessa, comunque tanto, ha un linguaggio. Ogni tanto me la risento. Come sì, tu ti risenti depresso, sì, come sì, ti senti? Tu una volta mi hai detto: io quando sì. Sono depresso, no, vabbè, sì, ricordiamola, la vogliamo ricordare sta cosa. In quest'ultimo mese vogliamo tirare fuori tutte le cartuccelle? Non no, non proprio in quest'ultimo mese, facciamo dall'anno prossimo. Se mai. Tutte le in quest'ultimo mese è un mese delicato, perché dal 29 giugno sì, riprende in onda con Telese. Sì, quindi sì. Cerchiamo di essere un po' istituzionali, diciamo. Sì, ma vaffanculo, va, tu e l'istituzione. Cosa facevo io? Cosa facevo tu, per, tu per toglierti la depressione sentire, allora. Ti sentivi Mosconi ti sentivi dalla no, mattina alla sera Mosconi Borghezio, che Borghezio no, anche Mosconi, no, Mosconi anche Mosconi, mai, Mosconi come mai. No sempre mi ricordo Borghezio, una volta a casa Borghezio, tua a Roma no, a Porta Pia ti sei messo là con l'iPad ma non so ti che querelo, non avevo a nessuna casa a Porta Pia io quando sono depresso mi vedo i pezzi di Mosconi quando bestemmia di la verità confessa ho già parlato con tutti gli avvocati qui c'ho qui ancora. Guarda, io ti faccio querelare del grande avvocato. Io ti faccio qui. Ma chi è che il monaco che batte la porta e che chiude urlando? Io ti faccio querelare da tutto Cosimo, il foro di Roma, Cosimo da, compreso Taranto. Quello di Padova. Per non parlare di quello di Padova, Cosimo da Taranto. Ah, peraltro, sai che ho avuto una notizia che mi è arrivata? No, ti prego, dai. No. Ok, la diremo alle 19.45. Di cari Cosimo amici, da alle 19 ho una notizia clamorosa da darvi su un fatto di. Riguardo la salute di Cruciani alle 19.45 una notizia mi è fatto venire in mente questa cosa qua. Cosimo da Taranto vai. Alle 19.45 dico una cosa veramente Cosimo importante da Taranto, su Cosimo. Cruciani Cosimo. Molto intima importante Cosimo. Questa è novità questa è una grossa novità vedrete allora. Vedrete dimmi Cosimo dimmi ragazzi Cosimo. Giustizia è fatta. Cioè su cosa? Cosa? È una frase brutta diciamo pena, questa 30 anni allora, vedi che la gente è contenta. Non c'è niente da fare. Finalmente la gente è contenta. Ma lei esultò anche quando arrestarono Galan? Lei esultò anche quando arrestarono Formigoni? La vera domanda giustizia farmi. È fatta? No, la lo domanda disse è quando arrestano un Formigoni italiano, quando arrestano un mafioso, un italiano magari no, questa... Esatto 30 italiana, questa anni, sarà italiana Peppi, poi. 30 anni, ma te rendi conto? Sei contento? Ma fosse un omicidio. Comunque, sei contento o no? Sei contento o no? Certo. Che abbiano dato 30 anni a Miss Furto, là, come cazzo si chiama? Mamma Furto, sei contento o no? 42 borseggi ha fatto. Cazzo, finalmente c'è stato un giudice che gli ha messo lei a posto dello zingaro. Fermo lì. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Blumatica, il software scelto dalle aziende per la sicurezza dei lavoratori. Blumatica.it. La Zanzara. Io sono quello che abita là. Sono Agis da Padova e anche io sono un amante dei piedi. I love my radio. Ciao, sono Marco da Danzica e anche a me piace farmi squirtare in faccia dalle ragazze. I love my radio. Cosa? Ma chi è che fa che cazzo di rumore lì? Troppi giorni che non sento le notizie su Efebal. Voglio sentire la sua voce. Non voglio sentire Montanelli e i discorsi sulla sua statua. Non voglio sentire la Confindustria e l'incontro con i stati generali, con Conte. Voglio sentire la voce suadente e calorosa di Efebal. Voglio sapere paese, delle sue notizie. Ditemi delle sue notizie, carissimi Cruciani. Dammi le notizie su Efebal. Ha rovinato definitivamente il paese. Cos'è? Efebal che fa una bomba. Cos'è? Signora Efebal. Signora Efebal. Ma secondo te ha ripreso a lavorare o no? Questa è anche una domanda che il nostro pubblico che si fa. Non ha mai lavorato. Aspetta, aspetta. Uno. Vedi, sta lavorando secondo no, me. Vedi, ma sì, rifai il numero del turco, rifai il numero del turco, vedrai che butta giù, sta lavorando, sta ma lavorando. Figurati, sta facendo quello che hai sentito prima, ma stai facendo figurati. Quello che hai sentito. Ma sta male, sta. Vedrai che butta giù. E cazzo. Ha risposto. Ma posso dirti che è scientifico? Quella non fa un cazzo. Cioè, è tanto, talmente ragazzi, una mezza matta totale. Ma no, che ma che nessuno mezza matta? Totale, cioè, una, ma no, una, ma no, ma fa un sacco matta, di soldi, non dire una cazzate, una, dai, è diventata ricca, più ricca pazza, di te. Vabbè, è più ricca quello, di te, ma dai, quello su. può dai. Essere, non me ne vergogno. Money, ragazzi, queste qua lo fanno per money. Spesso sono libere, inutile. No, perché ho notato una contraddizione. C'è una signora, forse la sentiremo più avanti, una senatrice dei Five Stars, che propone addirittura di cacciare, di cancellare il sito Escort Advisor, cioè dire, secondo sì, lei mettere gli annunci di pubblicità delle prostitute, come fanno diversi siti, non c'è solo Escort Advisor, sì, è una sì. Non istigazione, come si dice, un favoreggiamento della prostituzione, favoreggiamento. Certo, potenzialmente potrebbe ma essere, ma sei un bigotto, sì, del cazzo, hai rotto i coglioni anche tu con questa storia qua. Stasera sono particolarmente aggressivo nei tuoi confronti, mi hai rotto i coglioni, ma come puoi pensare irenico. Come io puoi pensare irenico. Che sia favoreggiamento della costituzione. Parla lui che per della prostituzione. Parla lui che per esaltarsi, per caricarsi e per togliersi ogni tanto dalla depressione, no, si sentiva gli audio e i video mai del grande fatto, bestemmiatore Mosconi. Come no, fatto, davanti a me fatto. Più volte. Mi hanno già lo studio legale di Padova ha già scritto tutto. Ti arriva a momenti. Fratello, sì. Ti arriva a momenti. La messaggio. PEC, ti arriva la PEC a momenti. A momenti ti arriva la PEC. Ma no, la PEC. Mi hanno segnalato già due diffamazioni. Ne ricevo già minuti. Troppe di PEC, guarda. Ti arriva la PEC. Posso dirti. Ti arriva la PEC. Allora, messaggio positivo da Susanna, che mi sembra si sia riappropriata della salaria. Messaggio molto positivo. Sono felice sulla mia salaria. Sono molto felice di essere sulla mia salaria. Grazie, io non ho fatto niente. Ho attivato delle mie conoscenze per fare in modo che queste minacce da parte di papponi che non vogliono Susanna sulla salaria fossero in qualche modo monitorate, controllate. Non è possibile che se una vuole esercitare liberamente la prostituzione su una strada, cosa legittima, poi c'è l'adescamento, sì, tante cose, cosa legittima, non lo possa fare però perché ci sono dei papponi. Questa è una vergogna. E mi scrive anche: mi faccio sbattere in ogni angolo della salaria. Che felicità! Sono messaggi positivi, sono messaggi di grande libertà. È di una tristezza. Non di una è tristezza la tristezza, ma lei assoluta, è felice così. Assoluta. Poi ha le sue depressioni come le possiamo avere è noi. È una tristezza assoluta. Vabbè, è una tristezza assoluta. Siete quattro froci. La contraddizione è questa. Mentre appunto questa senatrice dei 5 Stelle vuole fare chiudere per favoreggiamento della prostituzione dei siti di pubblicità delle escort, come Escort Advisor, delle mignotte, e ci sono un centinaio di deputati in Parlamento che ne fanno una giusta. Molti grillini. Da una parte una grillina vuole chiudere la prostituzione sostanzialmente, forse anche i bordelli, e chiudere i siti che fanno pubblicità alle prostitute. Poi ci sono moltissimi grillini che giustamente alla Camera e al Senato vogliono la legalizzazione della marijuana. Ragazzi, ma di che parliamo? La marijuana sì, la droga sì e le puttane no? Ma che roba è? Dai! A 20 metri vedo davanti a me Mario Draghi. Come Draghi? Oh, la Madonna, Mario Draghi. Draghi. Il presidente della Banca Europea, qua, Madonna mia. Gli sono pompiato addosso. Presidente, sì. Buonasera. Oh, generale, buonasera. Beh, figuriamoci. Ma come mai lei è qui a passeggiare? C'è una casa qui. Ah, vero, non lo sapevo. Umbria. Le posso fare una domanda? Sì, certo. Sì. Tiro fuori una moneta. Sì. La posso stampare? Attenzione, sì. L'ho detto al presidente della Banca Centrale. Sì. Ma quello ha chiamato e una non a Cicillo Cacace. E questo mi ha detto, certo che la può stampare. Certo, sì, la può stampare però a casa sua. Deve fare accettare al popolo. Ah. E se io sono il governo, la stampo non è che un popolo non l'accetta. Ma che mi viene a dire? Io sono il governo, stampo la moneta, quella non me l'accetta, il popolo non l'accetta. Non l'accetta, dice, ma dato il governo, vado al macellaio e compro la carne. Cioè, secondo adesso... Pappalardo, secondo no, Pappalardo, ma... Pappalardo, aspetta un attimo, secondo Pappalardo, vabbè, a parte la ricostruzione di Draghi, e siccome il governo è il governo, non avrebbe nessun problema, non dovrebbe avere nessun problema, sì, a stampare a fare, che ne so, la lira umbra, cosa, in quel caso, sì, esatto. La lira, e farla accettare al popolo. Però il problema è a monte. Tu stai già analizzando gli effetti di questa cosa. Il problema è a monte, cioè l'incontro tra Mario Draghi è questo scappato di casa, il quale lo ferma e gli dice: se tu mettiti, ne parli anche di Draghi, che vede tutti i capi di Stato, vede questo signore con la giacca arancione che gli si avvicina e dice: ma Draghi, io ho questa, voglio stampare moneta. Draghi cosa fa? Si guarda intorno, gli mette e gli dice sì sì, ma gli dice sì sì come quelle persone che tu vuoi allontanare più velocemente possibile, non è che gli dici sì perché sei d'accordo. Però c'è una linea, un fil rouge che lega chi? Che lega chi? Lega Pappalardo a Paragone. Paragone e hai detto tutto. No, vabbè, che c'entra? E hai detto tutto. Paragone vuole fondare un nuovo partito che ha come primo punto no euro. No euro. Evviva. Avanti tutta, avanti tutta, Gianluigi. Qui avrai sempre udienza in questo luogo. Udienza come tutti gli eretici. Come tutti gli eretici. Bravo, non gli stai facendo un favore. No, non gli stai facendo. Avrai spazio come sempre. Generale Pappalardo, come Febal, come Mauro da Mantova, come Donato da Varese, come Alberto Gottardo. Avrai sempre spazio. Avrai sempre spazio. Non gli stai facendo un favore. Ma Paragone, non è che devo dire. No, tu hai detto, avrai sempre spazio qui. Aspetta. E dopo aver mandato Pappalardo, sei un criminale. Tutto qua. Io ho deciso che voglio dare vita ad un partito politico, non più un movimento, un partito politico assolutamente per l'uscita dell'Italia dall'Unione Europea, dall'Eurozona, sulla falsa riga di quello che è avvenuto in Gran Bretagna con Brexit. Hai già in mente un nome? Non voglio scimmiottare e fare il Italexit, però il concetto è quello. Insomma, sarà legittimo? Sarà legittimo o no? Oppure è un crimine? Per te è un crimine? Ma è una follia, ma non un crimine. Ma è legittimo, ma è una follia. Ma tutto è legittimo. È legittimo anche chiedere la Verona, dai. Anche l'abolizione del Vaticano. Tutto è legittimo, ma è una follia. Per lui è follia. Per lui è tutta follia. L'altro giorno Mentana ha fatto un sondaggio. Però l'ha fatto. Il gilet arancione sono andati ieri, signori, siamo al 13%, più dei Fratelli d'Italia. Abbiamo già superato i Fratelli d'Italia. Vuol dire che la gente comincia ad apprezzarci per tanto le parole, le spese, le sondaggio? Ma qual è il sondaggio poi? Però ragazzi, c'è un ma tema. Ma perché Pappalardo cita perché Mentana? Perché dice che Mentana ha fatto un sondaggio in cui Gilles Arancioni sarebbero al 13%. Ma deve stare, non può pronunciare la parola Mentana, Pappalardo. Tu l'hai mai visto ospite da Mentana, Gerardo Pappalardo? No, ma ti chiedo, tu l'hai mai visto ospite Gerardo Pappalardo? Dovrebbe. Secondo te dovrebbe. Con la giacca arancione, sì, con la giacca arancione. Assolutamente, fare finire tutto in banca. Il circo deve espandersi ovunque. Posso darti una certezza? Cosa? Hai in onda il generale Pappalardo con la sua giacca arancione. È un grande errore. È un grande errore, posso dire. Mai. È un grande errore. Invece a me mi attaccano e questa è la prova. Cosa del prova? Nome che non sono venduto. Che c'è il Rai Mediaset, la 7 qui. Non c'è nessuno di tutti questi. Ti credo. Guarda, ti giuro, ti scateno da quando, dal 29 giugno, da quando riprendi in onda, scateno contro Pappalardo. Ti giuro, ti faccio fare una shitstorm con la gente che vuole Pappalardo. Ti faccio licenziare da Cairo. Quanto è vero in Dio? Ti creo un casino con Pappalardo che manco delle mani. Aspetta, lo faccio incatenare. Adesso lo dico, grazie per la segnalazione. Dunque, volevo rivelare una. Grazie, mi hanno richiamato adesso. Allora, la notizia è questa. Qual è la notizia? Avanti, qual è la notizia? Dimmi. Musica, la notizia? Una musica importante. Dai, cioè, un cioè, coglione, una sei, musica dimmi, importante. Dimmi. Giuseppe, dimmi. Mi hanno. Alcune persone importanti mi hanno avvisato che Giuseppe Cruciani finalmente probabilmente farà un intervento a un dente. Una persona molto influente abbia convinto il profeta a sbiancarsi quell'orrido dente nero. Ne ho parlato stamattina con il dentista, diremo anche di dove avverrà, ma soprattutto sveleremo chi è questa persona che è riuscita a convincere l'omuncolo inviato strapagato 450.000 euro con la residenza in Umbria e la piscina che la famiglia non vuole costruire. Vi diremo chi è stata questa persona che è riuscita a convincere il suddetto conduttore radiofonico che guadagna 450.000 euro al mese, alla qualifica di inviato ma non si è mai mosso da Viale Monterosa, a fare l'intervento al dente nero. Lo sveleremo nome e cognome. ci sto pensando da anni. Ne ho parlato stamattina con mio dentista. Io ti garantisco che svelerò il nome della persona che ha fatto scattare la scintilla. Ma vai a cagare. Sì, sì. Beh, dovrebbe essere una grande diretta frecceriana, quello della, del dente davanti sbiancato, sì. La grande diretta. E ne parliamo stasera qui a Fuori dal Coro. Maurizio da Verona, vai, Maurizio. Uno. Maurizio. Allora, uno, due e tre. Maurizio, dimmi. Chiuso. Lucio da Rimini, dai. Lucio da Rimini. Sono io. Dimmi. Ascolta, sul stato di Montanelle di Indro. Questo è fatto. Che io sono comunista, sono. Sì, sei comunista. Anarchico, sono comunista così, No, sono comunista. Sei anarchico. Ascolta, Cruciani, con tutto rispetto, Allora, secondo me, sì. Quei coglioni che sono andati a dipingere le statue, sono da impiccare. Da impiccare adesso, amico mio, da impiccare addirittura. Da impiccare mi sembra esagerato. Ma impiccare, amico mio, impiccare. Qualcuno dice addirittura manganellare. Dice comunque, la vernice era lavabile, il gesto rimane esecrabile, ma la vernice era lavabile. Posso dirti una cosa? Negli anni 30. Ma che vuol dire impiccare, amico mio? Cosa vuol dire impiccare? Ci sono una marea di statue, per esempio. Io, per esempio, le statue che ci sono, le vie intitolate, che cazzo ne so, a assassini comunisti in giro, che ne so, Stalin. Ma chi se ne frega, ci sono statue di chiunque, io ho vie intitolate a un sacco di persone, va benissimo, che restino lì, non me ne frega niente, statue di Stalin, Lenin, statue in Emilia Romagna che ci sono, che rimanga tutto. Statue di Lenin, ma dove l'hai vista statue di Lenin? No, c'è una statua di Lenin in un paesino in Emilia Romagna. Ma ci sarà la statua di Lenin, adesso fai una puntata di Fuori dal Coro con collegamento dalla statua di Lenin, dai, ma che minchiate dici? La Zanzara. Chi era quel cretino di poc'anzi? Allora ragazzi, Parenzo se l'è presa molto qualche istante fa con... No, però c'è da dire, prima che tu dica questo, c'è da dire che non c'è nessuna statua, c'è un busto di Lenin. Un busto, il cazzo che è, guarda. A Cavriago, in provincia di Reggio Emilia. Ma va benissimo, che resti pure quello, che me ne frega a me. Ma la storia è meravigliosa, perché fu regalato dall'Unione Sovietica in segno di ringraziamento a questa comunità. Paese di criminali. Ed è considerato uno dei pochi monumenti dedicati al grande leader bolscevico della rivoluzione di ottobre. Per cui Montanelli no. Collocato in un luogo pubblico nell'Europa occidentale durante la guerra. Ma va benissimo, cioè, è una cosa storica. Perché invece Montanelli che cosa era? Merda, ma io infatti non ho mai detto di abbattere la statua di Montanelli. Ma allora che vuoi? Ma dico che il busto di Lenin a Cavriago è addirittura in provincia di Reggio nell'Emilia, è addirittura un luogo storico frequentato a ricordo della donazione che l'Unione Sovietica fece in segno di ringraziamento il compagno Lenin. Comunque Stalin pare, Stalin. Lenin, no. Mi sbagliate, ragazzi. È Lenin. Intanto Parenzo, busto pochi istanti fa se l'è presa molto con Roberto Marcato, che è in collegamento dalla Lega. Buonasera Marcato. Che bello sentirvi, buonasera. Se non l'è presa, posso dire altrettanto. Se l'è presa molto con te, Marcato, perché hai esultato, hai goduto, hai detto che era meravigliosa questa giornata, che era poi ieri, per la condanna a 30 anni. Abbiamo ricevuto diverse telefonate. Ogni persona, qualsiasi persona che si è messa in collegamento è felice per la condanna di una ladra. Ma cosa rom. Vuol dire felice? Ma è felice come un 30 anni, cos'è un omicidio? Un assassino? È felice come un bambino. Un assassino prende 30 anni. È felice come un bambino. Vabbè, cosa vuoi contestare? Così potevi giocare con i Playmobil anziché esultare. Ma io gioco anche con i Playmobil, che problemi sono? Esatto, appunto, non ho capito. Perché appunto. Non ho capito, Parenzo, qual è la contestazione? Perché Marcato non può essere contento per il fatto che hai esultato anche quando hanno arrestato Galan per le vicende note venete? Sì, pure lì? Sì. Ma vergognati. Vergognati a esaltarti quando uno viene arrestato. Siccome io sono una persona onesta, quando arrestano un lazzarone, io sono felice. Uno potrebbe dire, magari non hai esultato quando arrestano in maniera così, fragorosa, quando magari mettono in galera un ladro italiano, un criminale italiano. Ha avuto 12 condanne che non ha mai non sono mai state date, perché è rimasta incinta e fra un pargolo e l'altro continuava ad andare a rompere le balle ai turisti, rubando loro portafogli, cellulari, e rimaneva impunita secondo me, dopo 20 anni di condanne, magari è anche giusto. Le hanno dato quanto un assassino? Quanto un assassino? O no? 30 anni quanto si dà un assassino? Quello sei dalla parte della Rom, vergogna. Ma sei parte della Rom? 12 volte è stata condannata, 12 volte, Parenzo, santo Dio, 12 volte. Che cosa deve fare uno per andare ma in galera? Ma sì, ma e certo, poi, è giusto sì, che vada in galera, ma da qui a esaltarsi come te è una roba folle proprio, ma è una cosa incredibile. Sono felice come un bambino. Ma perché? Tu dici ma che l'ha messa... Cosa... Parenzo prima ha avuto, ha osato dire che Marcato l'ha messa alla gogna, l'ha messa alla gogna, ha messo alla gogna. Così poverina, ha detto, ripetilo, diglielo. Sì, no, ripetilo, pensate agli anziani derubati da queste signorine qua. Ma c'è quanto, nessuno, quanto nessuno dice no, che è una brava persona, ma da qui a farla diventare una specie di assassina condannata a 30 anni e addirittura a esultare facendola alla gogna è già finita in galera, non merita il tuo disprezzo, è già finita in galera. Ma guarda te, c'è l'attenuante non... culturale, ma c'è quale l'attenuante storica, culturale, c'è l'attenuante, ma dai, ormai vada, ormai non vi resta balle, più nulla, rubare, vi resta solo carcere, l'arresto dei Rom, perché il Covid vi ha messo definitivamente a tacere a voi sovranisti, ti resta solo l'arresto della Rom, pensa a te male, a costruire un racconto Veneto, politico. E dovresti saperlo, siamo stati la regione esempio per il mondo, quello lo so, con il Covid, quello lo so, ma dico mio, infatti, a differenza Italia della Lombardia, a differenza Alba della Lombardia, siamo un modello da seguire. Certo, con il Covid. Certo, lo dico. Male anche qua. È andata male anche qua. L'ho detto da sempre quello che il Veneto è stato. Ti dico semplicemente che sui temi divisivi, diciamo, l'unica cosa che ti rimane è l'arresto della Rom. Perché sul resto, gli sbarchi non potete più dire un cazzo. Sulla, solo quello aspetta, ti rimane. Ti rimane aspetta, la Rom. Aspetta, ti rimane aspetta, solo aspetta, l'arresto della Rom. Non ho capito, ma lasciamo, aspetta, restiamo sulla Rom. Io non capisco perché uno non può essere contento. Non può essere contento perché mettono in galera una signora che è andata a rompere il cazzo per anni e anni, bravo, rimanendo impunita. Per colpa bravo della merda della giustizia italiana, della merda bravo della giustizia italiana, perché rimaneva incinta, tutte queste stronzate qui. Come stronzate? Alla fine incinta, tu dovresti essere contento. Meno male che è in galera, ma non lo dici. Certo, perché non lo dice Parenzo? Perché non lo dice? Felice. Oh, lui sono è felice come un bambino. Delle istituzioni. E allora ma si esalta per poco, si esalta per poco. Tu, cioè, secondo me è incredibile. Per un camorrista non l'hai detto. Non l'hai detto per Formigoni e Galan. Per Formigoni e Galan non hai detto questo. Non lo hai detto, sono felice come un bambino. Formigoni e Galan. Ma cosa c'entra quante volte? Non lo hai detto. No, Parenzo, diciamo questo che tema, al è questo il tema, diciamo che diciamo che fa più male, libero, fa più male quello tema, che fece Formigoni, Formigoni piuttosto che quello che fece la Roma, tra le due, come danno all'erario o come danno allo Stato, fa più vanno, danno quello che fece Formigoni. Ma non ti ho sentito! Non ti ho sentito! Ma non ti ho sentito dirlo! Non ti ho sentito dirlo! Ma ha fatto un post su Facebook, fatto, ma no, non ha detto un cazzo. Beh, quando hanno dopo voglio dire il punto qual è, Parenzo, non ho capito perché uno per forza deve il cioè punto non ho capito è, no, il punto qual punto è che ci sono due pesi e due misure, non penaltro bisognerebbe esultare, sì, non è che si esulta, no, c'è il diritto, no, non c'è lo stadio che dice viva l'hanno sbattuto in galera, buttiamo via la chiave, questo non è stato di diritto, questo non è stato di diritto, tu dici questo, no, è barbarie, no, no, non è stato, questo è di barbarie, una per 12 volte venga condannata, ma è giusto che stia in carcere, ma non è giusto che ma perché Demo, stai dalla parte della Roma? Parenzo, no, perché sei dalla parte della Roma? Indirettamente sei dalla parte della Roma. Perché non è mai stato derubato da una Roma lui, evidentemente. Ma cosa per quello sta perché non va in metropolitana, dite? Non va sui treni, ma cosa non si trova. Esatto, non si trova. Prende ma quale è autista? Ma che cazzo dite? Hai l'autista? Figa. Perché no? Perché no, non autista, ho la mia macchina. Ho la mia. Ma io vi querelo. Ma guarda che Cinetto ha già avuto mandato. Ma io vi scatero qualunque avvocato d'Italia. Prima di chiudere una parentesi. Dimmi, io vi scateno anche l'avvocato Placanica, l'avvocato di Carmina. Io vi scateno ma io vi scateno pure Placanica. Io vi scateno chiunque adesso. Quando avete messo Mosconi, io mi sono emozionato. Questo lo devo dire. No, perché è straordinario. Ma guarda, sono che avete una cosa in comune, lo vedi? Parenzo una volta non lo vuole ammettere perché adesso fa il fighetto. Per togliersi la depressione dalla testa, mi diceva: ah, sentiamoci un po' insieme, sentiamoci un po' di Mosconi. No, ma lo so, l'abbiamo fatto tutti. Strano che strano che Parenzo non abbia tirato fuori la storia dei 49 Mosconi milioni. Mosconi ha una utilità sociale straordinaria, meravigliosa, catartica, già lui è veramente aiuta. Comunque aiuta è molto scorretto. Io non non ho tirato fuori volutamente la questione dei 49 milioni della Lega. Non l'ho fatto volutamente. Non l'ho voluto fare. Volutamente. Tu dici la Rom fa più danni la Lega con i 49 milioni di furti della Rom. La Rom cosa? La Rom non ha mai rubato. Scusami, la Rom per rubarsi 49 milioni di euro dovrebbe lavorare incessantemente allo Stato, ma dovrebbe lavorare incessantemente per quanti anni? Fai un conto rapido. Quanti campi? Manco se si ci fossero tutti i Rom d'Italia impegnati all'unisono per 20 anni, riuscirebbero a portarsi via 49 milioni di euro. Ora, dopodiché, io infatti, siccome sono garantista anche con voi, non tirerò mai fuori la storia dei 49 milioni di euro. Mai, non mi permetterei mai di citarvi le persone della Lega che sono state condannate con sentenza definitiva nei diversi anni per questioni. Lui non esulta. Io non mi permetterei mai di dire 49 milioni di volte che ti sbagli. Non mi permetterei mai di usare il numero 49 contro di te. Ma cosa significa? Che c'entra con una ladra Rom? Che c'entra con una ladra Rom? Guarda, loro sono fatti così. Vorrei loro c'è video e ti dicono beh però c'è gente che ne ha ammazzati 4 e quindi chi se ne frega, uno ne ha ammazzati ma nessuno ha detto c'è gente che ne ha ammazzati 4 dai vuoi mettere comunque torneremo sempre ben altrismo. Io vorrei solo che tu calcolassi quanto ci vuole per arrivare a 49 milioni, cioè tutti i Rom d'Italia che sono pochissimi anche se messi insieme e messi insieme a lavorare per 49 anni non arriverebbero mai alla cifra di 49 milioni. Quanti Rolex devi rubare per arrivare a 49 milioni? Quanti Rolex devi rubare? Di assistenza 49 milioni all'anno. Allora Marcato, torniamo dopo un'altra volta sulla questione dell'utilità sociale di Mosconi. Ciao, a presto. Ciao. La Zanzara. È normale. Barisoni gay. Allora, per la milionesima volta, se devi chiamare, no auricolare, no viva voce, il telefono attaccato bene vicino alla bocca e deve prendere 5 tacchette, no 3 tacchette, una tacchette, meglio ancora se il telefono fisso. Altrimenti ti metto un coppa WhatsApp, registri il messaggio, clicchi invia e vaffanculo. E stiamo ancora a perdere tempo, non si sente, via l'auricolare, ma qua non prende, spegni la radio, ancora, dopo 10 anni di trasmissione. Giuseppe, tu lo sai che c'è una petizione per chiudere Pornhub? Petizione per chiudere Pornhub. Non so chi la fa, è interessante. Siamo alla follia. Tommy a canaglia. Sempre Tommy a canaglia che si firma sempre. Il tuo amico Tommy a canaglia che ti si farebbe, caro Parenzo, avrebbe con te un rapporto homosex insieme alla sua. È un porno attore insieme alla moglie, te lo ricordi? Sono venuti qua. Ah, no? Lady che Muffin. Mamma mia, Lady Muffin. Lady Muffin, ma qual è il problema? Non ho capito. Lady Muffin. Qual è il problema? Lady Muffin avrà la stessa statura, importanza sociale che ha, un cacciari. No, in alcun modo. Perché no? Perché la signora Lady Muffin. Ma perché? Che cosa ha Lady Muffin che non ti quadra? Non ho capito. Ma una sporca. Dica, parli, ma dica. Dai, una sporcacciona che col marito fa i filmini con i figli che ha, dai, ma una roba pazzesca. Non ho capito perché, qual è il problema? Diciamo ma ragazzi, ma che ti sembra normale? Una sporcacciona, sporcacciona simpatica, ve lo dico simpaticamente, voglio dire che col marito fa i filmini avendo dei figli, ma da che roba è? Dai. Allora, ci sono due notizie che voglio dare molto velocemente in pasto. Comunque, mi hai fatto passare questo come il difensore della LOM. In realtà il concetto è completamente diverso. In una democrazia liberale. Che non sia medievale, non si gioisce perché qualcuno è stato condannato. Se una Rom si gioisce perché giustizia ladra, è fatta. Chiamiamola così. Mi scrive l'ottimo Vito Haklun. Ma chi cazzo è Vito Haklun? Te lo faccio anche la scelta. Che cos'è? No. È il numero uno, vedi? Ma scusa, sto correndo. Ma chi è? Ti mando un vocale. No, te l'ho scritto perché così sembra che tu stai difendendo la Rom. Quando in realtà io penso che tu volessi dire questa roba qui, però okay, non si capisce. Non si capisce. Sembra quasi che cosa? Non sia una bella notizia che una persona recidiva è stata condannata. Ma chi è questo qua? È una bella notizia, ma per la giustizia, non per altro. scusa il fiatone, ma sto guendo. Ciao David. Ciao David. Allora, la gente, vedi, Haklund, parte Haklund. Vito Haklund, cioè la gente, gli ebrei spesso, beh, no, è un è scherzato. Stato portavoce di Forza Italia per tanto tempo, di deputati di Forza Italia, ma non è c'è male, un liberale, c'è di male essere ebrei, però sì, ma non lo caratterizza, cioè non è la cosa caratterizzante di Vito, no, il cognome che mi ha rimandato. Il concetto è molto semplice, sì. In una democrazia liberale, che palle. Allora ragazzi, due notizie sono molto importanti. La prima è questa: la truffa della falsa. Lo diciamo di chi ti ha fatto sbancare il dente, dai, lo diciamo. La truffa. Ma non c'è, guardate, molti protestano perché dicono che in realtà non me lo dovrei far sbiancare. È un'idea che vado coltivando da tempo. A chi è venuta, sto sondando, ma no, a me, ma da tempo sto sondando il terreno con vari medici, con vari specialisti, ma c'è qualcuno che ti ha fatto scattare la necessità di appunto, ma non com'è dire cazzate, cosa? Ma non è vero. Allora ragazzi, notizia fondamentale: la truffa della falsa cassa integrazione Covid. Cioè, ci sono aziende, è incredibile, finte aziende, finte assunzioni retrodatate per accedere al beneficio della falsa della cassa integrazione Covid. Quale regione è al primo posto, David? Quale regione è al primo posto? La Lombardia? No. L'Emilia Romagna? No, amico mio. Il Piemonte? No. Scendiamo più giù, l'Umbria? No. Il Lazio, no ragazzi, ma io non voglio dire niente, non lo voglio dire perché sennò sembra che sono, però non è un caso, non può essere un caso sempre, forse ci sono più poveri, non lo so, la prima regione e dunque hanno più bisogno di ricevere soldi, dunque le pensano tutte, è anche geniale, per carità, cioè fare finte aziende, finte assunzioni, ci vuole del genio per avere il beneficio, ma il primo posto è della ragazzi, di che cosa il primo? della Campania, dai su ragazzi. Alberto da Genova, dai Alberto, dimmi. Sì, ciao Lucio, parliamo di cose serie ora. Sì, c'è un messaggio che volevo farti ascoltare, però che volevo far ascoltare a tutti, un messaggio di una ragazza che mi è arrivato l'altro giorno, che pone un problema serio, molto serio, molto importante, molto serio, di sessualità tra uomo e donna, che è un problema serio perché molti uomini alle 20:09. Assolutamente, molti uomini si rifiutano di fare o di farsi fare quello che in realtà pretendono ovviamente con tutta il consenso possibile. In questi giorni parlare di consenso nel sesso è fondamentale. Dopo i fatti, sempre. Però in questi giorni dove ci sono questi i fatti di Milano, sempre che siano veri, naturalmente, sempre che vengano confermati. Beh, quella è una storia agghiacciante. Di un giornalista e di un ex assessore a Milano che avrebbe usato una violenza terribile nei confronti di una donna, la questione del consenso è fondamentale. Ci vuole sempre e comunque il consenso. Poi capisco che il confine sia sottile. No, non è sottile. Beh, il confine. Ogni tanto il confine è sottile. Se lo vuoi capire, lo capisci. Non è sottile. No, ma certo, quello, in quel caso non si parla di non confini è sottile sottili, in alcun però modo. Secondo la ricostruzione. Sai se una persona è disponibile. Ma senti che cosa dice questa ragazza, che è fondamentale. Senti. Allora, Cruciani, tu mi devi spiegare questa cosa. Dì. Allora, ci sono un uomo e una donna eterosessuali. Sì. Allora, finché lei c'ha la figa e lui il cazzo, ok, si tromba, va bene. D'accordo. Poi? Però poi succede che lui, a una certa, pretende il buco del culo, ok? Anche questo, sì. E lei non glielo vuole dare, però lui lo pretende. Sì. Poi lei, quando pretende il suo di buco di culo, lui naturalmente non glielo dà. Sì. Allora mi devi spiegare questa cosa. Giusto. Perché a me gli uomini chiedono sempre il culo e quando io lo chiedo a loro, loro non me lo danno. Cioè, che differenza c'è tra il mio di culo e il tuo? Abbiamo tutti e due lo stesso buco di culo. Sì. Se tu chiedi il mio, perché non posso chiedere il tuo? Ragazzi, proprio volendo parlare letteralmente, diciamo, di questo argomento, non ha tutti i torti questa signorina, questa gentile signorina, questa giovane signorina, giovine signorina. Ragazzi, è così però. Noi spesso vogliamo delle cose. Che differenza c'è tra l'ano, lo sfintere di un uomo e lo sfintere di una donna? Dal punto di vista anatomico non c'è nessuna differenza, alcuna. Eppure noi siamo avidi di quella cosa, a meno che uno non è contro, naturalmente, oppure non abbia voglia, cosa legittima. Siamo avidi anche mentalmente di quella cosa lì. Però quando la devono fare a noi, no. No, ha ragione la signorina. Ha perfettamente ragione la signorina. Alberto, dimmi, c'è un'altra notizia. Scusami Alberto se ti interrompo, che mi fa girare veramente i coglioni. Ora, 30 anni alla Roma, uno è contento perché hanno dato 30 anni alla Roma. Però c'è una sentenza che grida vendetta, secondo me, eppure qualcuno dice che è una sentenza pesante. Un fatto di cronaca incredibile. una ragazzina di 12 anni violentata dai genitori, anzi dalla madre e dal convivente, per diversi anni, dai 12 ai 18, con il calendario, cioè c'era il calendario delle violenze, caro David. Queste persone sono, sì, il calendario, proprio mettevano nel calendario le violenze, una cosa incredibile, violentata da quando era bambina. E qua dicono maxi condanna per i genitori e il patrigno. Sai quanto hanno preso questi signori? 10 anni alla madre e al suo compagno. La donna aveva compilato un calendario per i giorni in cui la figlia doveva subire gli stupri. Beh, una cosa, allora sì. io dico una cosa ragazzi, 10 anni alla madre e 10 anni al patrigno, al convivente, vi sembrano tanti? Maxi condanna, non lo so, cioè stupri a una ragazzina dai 12 all'età adulta, ma è roba, certo, da palla al piede, da palla. Adesso non voglio esagerare, ecco appunto, però stupri nei confronti di una bambina, la Rom 30 anni e questi 10 anni, lo dicevo, no, prima, ma no, non dicevi niente prima, ho detto esattamente questo, dare 30 anni a una ladra, poi non si capisce perché chi ha commesso crimini molto più orrendi. Ragazzi, 10 anni a una madre che metteva nel calendario gli stupri alla figlia. È incredibile, è una cosa. Sempre che la sentenza venga confermata, per carità, che poi può essere ribaltata, ma stiamo alla sentenza che è stata emessa. 10 anni e parlano di condanna pesante. Non so perché c'è scritto qua su un giornale di Genova. Maxi condanna per i genitori e il patrigno. Uno va a leggere, dice 10 anni. La donna aveva compilato un calendario per i giorni in cui la figlia doveva subire gli abusi. Bah, ragazzi, incredibile. Alberto, dimmi. Sì, Crucio, sì, eccomi, sono qua. Senti, ti volevo suggerire un metodo a te che pisci nei lavandini. No, io non ho mai pisciato in un lavandino in vita mia, posso dirti? Non ho mai pisciato in un lavandino. Ma ho detto che è legittimo farlo. Ho, diciamo, propagandato questo metodo, diciamo, di pissing, se vogliamo così, anche se pissing ha un altro significato, e diciamo di urinare. Dicendo che è legittimo, anzi quasi doveroso in alcuni casi, spesso per sfregio, per esempio a casa dei genitori di tua moglie o della tua fidanzata, magari non sopporti, oppure a casa di qualche amico, in qualche festa, urinare nel lavandino dove poi uno si va a lavare le mani, ottimo metodo. Però non l'ho mai fatto, non lo so perché, non l'ho mai fatto. Però è legittimo farlo. Casa dei suoceri, ottimo, ma lì ti stanno sui coglioni, pisci nel lavandino dove poi il suocero magari si lava i denti, ottimo. Farebbe piacere anche pisciare nel lavandino di Parenzo, magari. Quello. Grazie. Credo che non le capiterà mai per una semplice ragione: lei non sarà mai ammesso al salotto di casa mia. Molto semplice. Visto mai, che ne sai, non puoi mai saperlo. Guarda, caro, ci sono poche cose che ti posso garantire. Una di queste. È che culo, i partecipanti alla trasmissione, questo è scritto col sangue, diciamo, scritto qua. Non lo prenderai secondo, mai nel culo. Al secondo, ma metaforicamente magari mi è già capitato, ma materialmente ti posso assicurare sulla mia vita che non capiterà. Seconda cosa che ti posso assicurare è che nessuno dei partecipanti al format radiofonico secondo, La Zanzara, primo, secondo, i partecipanti non metteranno mai piede a casa mia. Che ne sai che Alberto per caso ti assicuro, nessuno dei partecipanti. Il terzo non piscerai mai nel lavandino. Tutti i suoi amici avvocati, commercialisti, qualche volta una pisciata nel lavandino gliel'hanno scacciata. Ma ragazzi, a Confindustria è pieno di gente, anche nelle alte dirigenze, che pisce nel lavandino, lo so. Ma che figura. Ne sono a conoscenza di questa cosa qua. Ma che disastro. È pieno di dirigenti confindustriali, lì a Viale dell'Astronomia. Hai distrutto tu, Viale dell'Astronomia, ma hai distrutto tutto. Pisciano tranquillamente nel lavandino. Stai già facendo un disastro, guarda. Ma è normale che sia così, tutti può essere capitato, no, in percentuale, per esempio Confindustria ci saranno 10% di omosessuali, ci saranno, ma cosa c'entra, cosa c'è? Perché non vai a fare questi conti alla Confagricoltura, alla Coldiretti, perché devi dire della Confindustria, ma no, il 10% ma di non prossimi. Lo so, ma come, ma è normale rispetto alla mission della rete che rappresenta, che qui abbiamo, ma perché non ci dovrebbero essere, spiegami, a Confindustria, perché non è un argomento interessante, il nuovo presidente di Confindustria dovrebbe dire anche tu. Dici che Roy, certo. Ma tu dici che il rosa, il colore del giornale, è un po' un colore così, no, dici, salmone, per quello che rosa, dice il colore rosa, salmone, è salmone, perché è così chic, è salmone, quindi rosa è la Gazzetta dello Sport, quindi rosa sono tutti froci la Gazzetta dello Sport, ma cosa dici? Perché dici delle stupidaggini? Cioè tu stai dicendo che il rosa della Gazzetta dello Sport è un giornale che lega gli omosessuali, perché il rosa, ma ti rendi conto tu dei tuoi ragionamenti? Ho detto semplicemente una cosa, che associazioni come Confindustria, grandi associazioni, hanno per natura, quasi in maniera naturale, una percentuale dei froci, c'è poco da fare, saranno il 10%, 100%, ecco, come mi scrive normale. Ad esempio l'avvocato Trucco: io sono stato tante volte a casa tua ma non ho mai fatto la pipì nel lavandino, sbagliato, giuro, sbagliato, dico, sbagliato, lo so caro, avrebbe lo dovuto so farlo, io non ho avuto il tempo di tu farlo. E Tillina siete persone per bene, infatti non telefonate alla Zanzara, tutti, tu fermi e tutti. Tillina, fermi tutti, fermi tutti. La Zanzara. Ciao, sono Mattia e anch'io mi annuso le dita dopo essermele strusciate nel culo. I love my radio. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. Promo 24. Riprogettare i processi, digitalizzare la supply chain o adottare sistemi di business intelligence prima dell'emergenza sanitaria non sembrava urgente, ma ora è vincolante per il futuro delle aziende. Sorma, gruppo Centropaghe, che da 40 anni informatizza aziende manifatturiere multisettore e internazionali, realizza progetti di innovazione e offre soluzioni custom di MES, logistica di magazzino, Salesforce Automation, fatturazione elettronica, business intelligence e analytics. Il software SI5 ERP di Sorma coniuga funzionalità potenti con la tecnologia e la digitalizzazione. Con la nuova versione web del software SI5 ERP di Sorma, gruppo Centropaghe, i dati sono accessibili da remoto H24. Visita sorma.com, ERP e Digitech per aziende sfidanti. La Zanzara. Pippe. Sembra comunque normale tenere un cavallo in casa? Per noi è normale, perché non è un cavallo, un pomo piccolo piccolo è. Vi fa vivere bene questo cavallo? Cioè, a che vi serve sto cavallo? Mi serve per compagnia di mio marito, perché è anziano, tiene problemi. E lui si divaga con questo cavallo. È giusto, anche questo è giusto. Dai, si che divaga, si spensiera, perché ripete, è una persona anziana. Mi piace scopare, mi piace i cazzi, mi piace che mi sbattono i cazzi in faccia, mi piace prendere i cazzi e io mi piace godere, mi piace che io lavoravo su un tavolino e mi prendevano a destra, a sinistra, sopra, sotto. Tirano fuori i piani più strani, arriva un certo Colau, come ha detto lui, Colau, ci mai che Colau, un brasiliano, Colau, brasiliano, caffè, ma che vuole questo Colau? Un uomo che ruota in certi ambiti di potere, il conte lo chiama e gli dice: tu devi andare a guardare quelli che sono gli aspetti sociali, politici, economici per quanto riguarda la nuova emergenza. No, Colau, tu te ne vai a casa. Tu te ne vai a casa con noi, tu non mangerai, mangerai malissimo, anche perché noi un piano di emergenza ce l'abbiamo. Piano di emergenza del signor Pappalardo. È vero che Colau non è stato un trionfo da questo punto di vista. L'ironia pappalardiana si può anche capire, si può piuttosto anche capire. Che conoscere il piano di emergenza di Pappalardo lo pigli in culo. A questo punto no, ma preferirei farmi pisciare sul lavandino piuttosto che conoscere il piano di emergenza di Pappalardo. Tanta è la stima che nutro. Sì. Responsabili non paga nessuno, per cui Burioni dice che non andrà in galera. Conte lui dice che non andrà in galera. Ma sappiamo che il movimento Gilet Arancione cresce e diventano milioni. Ma voi pensate che non ci sarà un tribunale speciale che giudicherà le responsabilità di questi signori? Voi pensate che non accadrà, che non li metteremo tutti in galera? Vuole mettere in galera Conte Burioni, con i tribunali speciali. Tu capisci perché queste persone che partecipano alla Zanzara non potrebbero mai sedere al mio desco, capisci? Allora andiamo con chi? Ma anche se tu portassi Umberto a casa di tua mamma, bellissima famiglia, di tua sorella a Pescara, prova a immaginare se tu portassi queste persone nella tua famiglia, che è una famiglia di origine papaline peraltro, della allora nobiltà nera romana. Bello tutto questo. Se tu, la maggior parte sono degli strozzi, erano degli stronzi e continuano a essere degli bei stronzi. Bei rapporti, cioè, bel modo anche di qual è il problema di spiattellare cose private, da, comunque ma parla che lui, vuoi fare tu. Parla lui che quello parla dei non... denti, dei miei denti, vai. Oggi sì, sono andato al dentista a fare la pulizia. Non è andata denti. Così. Sì, ascoltatori, no, volete sapere oggi. La realtà? No, no. Umberto da Prato, dai. Mi autorizzi a dire le cose come stanno? No, no, perché non è vero. Umberto da Prato, Umberto da Prato. Umberto, oh, buonasera, finalmente posso parlare con Parenzo e Cruciani. Oh, allora, dimmi Umberto, dimmi. Dato che ragionava che Parenzo gli garba difendere le minoranze rom. Sì, sempre. Ma io non abitué, no, ci va a cena insieme. Ma no, dipende, se uno ruba, perché ruba. Questi qua sono sporchi, brutti, sporchi e zozzoni e ladri, e dunque Parenzo non va nei campi rom no, a mangiare. Tutti. Parenzo va a mangiare da un'altra parte, poi va nei campi rom scortato, facendo finta di fare i servizi televisivi, finta. Eccetera, eccetera. Io veramente, io ti scateno. Non frequenta rom. Io diciamo, frequento più rom io. Sono più rom io, Umberto, avvocati, dimmi. Patrocinanti in Cassazione. Sì, Umberto. Posso dirti? Sì. Allora, vi voglio dire al buon Parenzo. Sì. Che io parlo del caso di Prato, no? A Prato sono stati sequestrati 2 milioni di euro. Intanto si dice bravo, tanto si dice a Prao, no, a Prato, ma a Prao, non rompere i coglioni, perché non sai un cazzo. Dai, Umberto, continua. Euro a una famiglia che sembrava fosse nulla tenente, più ma ci sono diversi immobili. Casi, dunque si fa presto arrivare a 49 milioni con i rom. È inutile. Pensa un po' te quanto è difficile, questi non lavorando riescono ad avere 2 milioni di euro nel conto. Dai, e forza. Un Parenzo ci deve dire com'è possibile questa cosa. Parenzo, spiegaci com'è possibile. Com'è possibile com'è che possibile? Accumulino fortune che ogni tanto vengono sequestrate, fa? Non è vero? Come tu mi fa? Dirai sono soldi privati, non rubano soldi ma al pubblico. Sì, diciamo. Ma può io... darsi. Io... Ma come si fa? Se uno ruba, ruba. Dopodiché la stessa violenza, diciamo, la vorrei riscontrare quando arrestano degli evasori fiscali, ad esempio. Cioè, oppure quando arrestano. Dici. Camorristi d'accordo, ma degli evasori fiscali dei italiani mafiosi, io non vedo i Marcato fiscali. Scatenati della Lega, non vi vedo così attenti, diciamo, non vi vedo così attenti. Enrico da Milano, Umberto, ciao, Enrico da Milano, Enrico, dimmi. Sì, pronto, buonasera. Dimmi. Allora, volevo dire a Davide due cose, ma lui si è sempre battuto giustamente anche contro ogni minima singola forma di violenza, anche da parte delle vittime di gravissime atrocità. Sì. Vabbè, allora... Ora adesso vanno delle persone, degli studenti tra l'altro, a imbrattare una statua e dice no, degli stronzi, comunque... dai, degli stronzi. No, io guarda che l'ho scritto, perché... degli stronzi, e adesso dice no, ma guardi che in realtà no, ho detto che chi l'ha fatto. Sono intervenute tre diverse agenzie di polizia, tra l'ANSA di Milano e due private. Come eri lì quando hanno imbrattato la statua? Quando hanno pulito. Quando è arrivata la russa, eccetera, sì, tutti allora? Gli altri. Sì. E io eri lì con i fratelli d'Italia, diciamo, eri lì insieme ai fratelli d'Italia, no? Per identificare il giorno. No? Vabbè, allora? Allora? E io ero lì, ho visto che per terra è tutto imbrattato di rosso e non andava via. E anche i colleghi dei beni culturali dicevano che sì, avevano tolto il grosso, ma comunque rimanevano tutti i segni rossi per terra ed è una roba che... Ha detto la solita cazzata Parenzo, che era lavabile e basta, era facilmente lavabile. Perché Parenzo ha letto due articoli conosciuti dove dicono... No, scusami, io primo ho condannato, dica, ho condannato l'episodio incredibile, allora, dico, quindi non ho detto che è una stupidaggine, ho detto che sono dei criminali. Dopodiché il danno per fortuna è limitato, ma lo sfregio rimane, questo ho detto. Tant'è che è stata pulita la statua. Vabbè, allora per fortuna. No, certo che è stata pulita. E allora basta. Va via tutto, non è che non l'hanno amputata, mutilata, per fortuna hanno amputato questa vernice. Perché in Italia la violenza nei confronti delle statue ha sempre quel sapore di casereccio italiano, cioè vorrei ma non posso. In altri paesi non dico che sia giusto, però uno ha un obiettivo, uno stupratore, un colonialista, un pezzo di merda, uno stronzo, un fascista, eccetera, eccetera, e vai a battere la statua. In Italia no, o si aprono i dibattiti oppure si fa la vernice, ma vaffanculo, va, fermi. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Blumatica, il software scelto da ingegneri, architetti, geometri, geologi e periti. La Zanzara. No, è possibilissimo. Closing all your doors, don't let the fuck house beside. Allora Cruciani, ti spiego nel dettaglio come si incastra il testicolo nel seggiolino, perché capitò al parroco della parrocchia dove andavo da ragazzino, che ce lo raccontava la perpetua. Praticamente, sai quei seggiolini piccoli, bassi bassi, fatte a listarelle, no? Con in mezzo lo spazio, che usano gli anziani per sedersi sulla vasca. Il coglione anziano, come tu ben sai, tende a scendere, no? Lo scroto tende a scendere. Il testicolo si è infilato nell'interstizio tra le asticelle e poi fa conto come un alamaro nella sua asola, girato di 90 gradi, e rimane incastrato il coglione proprio nello sgabellino. Quindi ci vuole qualcuno che arriva e trick, lo rigira e sbottona la palla al malcapitato. Il peti vaginali, che in gergo anglosassone vengono chiamati queef, cioè, sono prodotti solamente dalla posizione pecorina. Sì, ottimo, sì, perché giusto, è il modo in cui vulva e vagina sono piegate e lo stantuffo spinge aria dentro. Giusto, giusto. Infatti, se ci fate caso, se tipo voi siete sopra, se la tipa è sopra, non succede, non mai, succede mai, solo pecorina. Qui. E noi nel terzo provvedimento prevediamo la stampa della moneta nazionale. Torna la lira, torna! E noi prevediamo ad ogni famiglia che oggi è senza reddito un assegno di 1500 lire uguale a 1500 euro, per ogni figlio minore 500 lire uguale a 500 euro e 20.000 lire uguale a 20.000 euro alle imprese che devono riprendere la loro attività. Dice, ma lei come fa? È stampo, no? Non mi costa una fatica. Ci scusi, venga qui, direttore generale del tesoro, lei domani mi porta qui 700 miliardi di lire italiche e io per 6 mesi devo dare i soldi alla gente che devono riprendere la loro attività. Bene! Dice, ma lei lo può fare? Certo che lo posso fare. Ma chi te la dice? Lo dice la stessa Banca Centrale Europea. Ma non è stupendo, ma ragazzi, ma è stupendo, è stupendo. Ma uno che ti dice, certo che lo posso questo fare, è un ma certo che lo paragone, posso fare, ti rendi conto? Ma, certo che lo posso fare, certo. Questa è l'armata Brancaleone, questo qua, certo che lo posso Branca fare. Branca Paragone, sì. Dici. Ma non lo so, Antonio Branca, da Roma. Branca, c'è la musica. Branca, se la cerco io. Branca. Leon. C'è un tizio, aspetta, Branca. Leon. Questo lo trovo io. Allora, aspetta un attimo, prima di andare all'ascoltatore Antonio da Roma, c'è un WhatsApp che è arrivato incredibile su sparare in testa a Montanelli, se non sbaglio, no? Chi sparare detto, in testa a Montanelli. No, aspetta, senti questo qua. Beh, gli hanno sparato alle gambe, è molto differente. Sì, no, ma a parte che ormai è morto, per cui. No, gli spararono alle gambe. Bisognava sparare in testa. Secondo questo qua bisognava sparare in testa, senti. Allora Cruciani, le palle ce le avevano i compagni che sbagliavano quando gli hanno sparato in una gamba. Sbagliando, perché a uno come Montanelli bisognava sparargli in testa. Capisci la gravità di questa cosa, no? Capisci la gravità di questa cosa? Questo, non so chi sia questo qua, ma è di una gravità. Che cos'è? Che cos'è? Stasera è il giorno in cui. Leon. L'altro giorno Mentana ha fatto un sondaggio. Falso. Però l'ha fatto. I gilet arancioni sono nati ieri, signori, siamo al 13%, più dei Fratelli d'Italia. Abbiamo già superato i Fratelli d'Italia. Euro! Sei incredibile. Antonio da Roma. C'è. E uno fa un partito contro l'euro, eccetera, eccetera, e tu lo sputtani così. Antonio da Roma, dai, Antonio. Ma perché stasera è così? Che roba è? Che cos'è questo? Ma cos'è? Cos'è? L'armato Brancaleone, dai. Ma è il pezzo giusto. Che cos'è? Ecco, aspetta. Leon. Io ho visto uno con la mascherina in macchina, va al cesso con la mascherina, va a letto con sua moglie con la mascherina. Ma la volete smettere? Quella mascherina non serve a niente, è una boiata, è un bavaglio per capire che il popolo italiano ormai è pecorone e possono fare del popolo italiano quello che vogliono. Ce n'è un altro però buono, i vaccini usateli sui parlamentari, ma l'abbiamo messo sui vaccini usateli dai parlamentari, quello è stupendo. Fammi mettere, fammi sentire quelli, i vaccini usateli sui parlamentari. Io una proposta ce l'ho da fare. Li dobbiamo utilizzare questi vaccini. Mettiamo tutti i deputati, tutti i senatori, e ci facciamo a loro i vaccini! Che ne facciamo a loro! A loro! Tanto ci sono i vaccini e glielo facciamo a loro! E vediamo un po' come va a finire con questa storia delle false pandemie. Antonio, vai. Posso? Dimmi Antonio, dimmi. Senti, io vorrei parlare con Parenzo, perché è qui. È andato un attimo via, non c'è, torna più tardi. No, ci sei. Dimmi. Non hai l'idea del danno che fanno i zingari, io li chiamo zingari, sì. Lo posso fare perché li conosco da 50 anni. Sì, allora, sì. I danni morali, ci sono le agenzie turistiche nel mondo che portano come avviso di fare attenzione alle stazioni, sulle metro, perché per i zingari. Sì. Poi i danni che fanno è proprio reale. Ma lei sa i danni che fa al paese la sua ignoranza? I danni materiali che la sua ignoranza fa al paese. Antonio, non mollare, attacca, non mollare. La sua ignoranza. Posso scrivere un libro sui zingari. Zingari. Gli usi, costumi e abitudini dei zingari. Che hanno fatto sti zingari? Che fanno? Prima di tutto, loro non hanno nessun rispetto per la donna, nel senso che le ragazzine a 12 anni, 13 anni al primo menarca se le giocano perché devono essere deflorate. Questa è un'usanza che loro hanno. Ma è superata questa cosa qua, non è? Ormai no, è una... no, ma non è solo questo. Loro non pagano contravenzioni. Questo anche gli italiani non le pagano. Gli italiani, insomma, quelli che non sono No, non c'entra, loro non le pagano. Perché tu le paghi invece, le paghi le multe, tu invece le paghi? Io sì. C'è pieno di gente, pieno di italiani che non pagano le multe, appunto, però, in protesto perché non le pagano. Io le voglio dire, loro fanno danni, ammazzano le persone, portano senza patente, ammazzano le persone e nessuno le paga. No, ammazzano le persone, guardi che c'è stato qualche italiano che qualche settimana fa, purtroppo, c'è stato il trapper, il famoso trapper che senza patente, fallo risentire il famoso trapper, l'amico del brasiliano, a fratelli, incriminale. Fallo sentire, fratelli. Dici, fallo con sentire. Con la macchina, fratelli. Ecco, fallo non sentire. Non è possibile. Che cosa? Andare in una metropolitana, andare su un pullman dover vedere queste squadre che stanno lì per rubare. Questo è vero. È brutta quell'immagine. E poi scusate, ma voi pensate alle mafie italiane? Ma la mafia zingara, signori. Di Silvio, di Casaborica, non sono da meno. C'è tutta un'organizzazione. Beh, oddio, adesso la camorra non è che ho la capito. La mafia gli fa un baffo. Addirittura, Parenzo non reagisce di fronte a questa cosa. Sono allibito perché vorrei farti sentire che cosa disse quell'altro criminale trapper che ha devastato la sua macchina, ma poteva creare un casino. Hai sentito uno zingaro che si pentisce? Hai mai sentito lo zingaro che fa un pentimento? Perché tutta Velletri e tutta la campagna romana. Ma lasci stare Velletri, la sua ignoranza costa al paese. La sua ignoranza costa più di un. Più di un portafoglio rubato. Ci costa più di un portafoglio rubato. Attenzione, che Antonio è interessante. Sta dicendo che la campagna di Velletri è piena di cadaveri. Cioè, che vuol dire? Antonio, andiamo a concretizzare. La campagna romana, voglio dire che è piena di cadaveri di gente. Devi parlare, Antonio. Io ti dico solo che non esiste il pentimento dei singoli. Se poco a poco scoprono che qualcuno gli può far danno, non la trovi più. Ma addirittura, ma tu ne sai qualcosa di queste robe qua? Ne sai qualcosa? Ma a me mi dispiace, ma io qualcosa ne so, ma forse quello che so io è solo un minimo. Ma la vera mafia grossa italiana è quella svizzera. Capito, Parenzo? Per tutte le altre mafie. Quest'Antonio, quest'Antonio però ti ha dato una pennellata, ti ha dato una pennellata. Questo Antonio qui, la sua ignoranza ci costa di più di un portafoglio rubato sulla metropolitana. Cioè costa proprio al paese, capisci in cazzo. Ci costa. E l'abbiamo fatto anche studiare con soldi pubblici questo qua, l'abbiamo fatto anche studiare con soldi pubblici. Ciao Antonio, ciao. Richiamami presto, ciao. Ma figurati. Ragazzi, una piotta ai 10 così, terza marcia, non di ci sono problemi. Di questo non dico nulla. Non ci sono problemi. Vi insegno a guidare, quando il semaforo è rosso si fa così, tac, gli imbocchi qua, gli giri qua, fratelli, così. Un criminale. Boom. Vada, ecco, fratelli, ho sfornato tutto, fratelli. Ho sfornato tutto, fratelli, ho preso il muro, fratelli, te dico fermate, fratelli. Ho preso il muro, fratelli. Eh sì, fratelli, ho preso il muro. Dai, oggi do anna così, ragazzi. Se vi siete salvati la diretta, siete miliardari. Fratelli, no, preso il muro, fratelli. Tu dici italiano questo qua, non Roma. Se vi siete salvati la diretta, siete miliardari. Perché anche Roma sa. Dici questo qua perfettamente integrato. Integrato non lo so, in realtà un po' integrato. Oggi lo hanno così, ragazzi, se vi siete salvati la diretta siete miliardari, fratelli, no, prendi il muro, fratelli! Non mi fate mandare il cognome negro o no? Mi fate mandare chi si chiama negro? Lo possiamo mandare chi si chiama negro? O non lo possiamo mandare? Adesso se la prendono pure con quelli che si chiamano negro di cognome. Negro di cognome se la prendono. C'è gente che adesso si arriverà al fatto che uno che si chiama negro di cognome gli faranno cambiare nome a uno che si chiama negro, cazzo. Ma figure. Guarda, senti, anzi, no, guarda. Pronto? Sì, buonasera signora. Negro? Sì, dica. Chiamo dal comune. Stiamo lanciando una nuova campagna antirazzismo. E sarebbe opportuno che lei cambiasse cognome? No, assolutamente non esiste. Non esiste. Ieri, avendo sentito quella una trasmissione al solito, no? E ho detto, ma vuoi vedere il fatto che qualcuno mi chiederà di cambiare cognome. Il termine negro sta a indicare generalmente un uomo di colore, ma detto in maniera sicuramente spregiativa, cioè uno non va a dire un uomo di colore. Quando vuole essere negativo e offendere dice è un negro. Cambiare i cognomi è la cosa più aberrante che un popolo civile possa fare. Ma no signore, in questo caso cambiare un cognome è la cosa secondo me più civile in questo momento. No, che cos'è lei, un 5 stelle? Non mi occupo di politica e ne sto ben lontano. Ma si rende conto della follia? Se lei si chiama Salvini e viene qualcuno e gli dice, sai, siccome Salvini è un delinquente, un razzista, così, perché non cambi cognome? Se il fine fosse nobile, e in questo caso il fine... Ma come si fa a dire nobile? Uno... Nobilissimo, signora, nobilissimo. Ma perché non è gradito il termine negro? È come testimone di Geova. Mi sembrava la stessa cosa. Cioè, lei mi paragona ai testimoni di Geova? Sì, ma no. Ma signora, ma come può dire una cosa simile? Il termine negro è dispregiativo. Ma si rende conto di quello che si... Beh, vedo che lei non è molto propensa a cambiare il cognome negro. Ma assolutamente. Anzi, offensivo. Molto offensivo. I criminali, gente che ha ucciso, i mafiosi. Quelli sono, dovete far cambiare nome a quella gente. Quindi, ma non alla gente per bene. È diverso, signore, è diverso, non deve adirarsi. Ma non è diverso, il cognome appartiene alla storia di una persona. Ma se questa storia di una persona è mutata, bisogna cercare di... Ma cos'è mutato? È mutato il contesto nel quale il suo cognome è inserito. Ma il contesto ancora in Italia non è cambiato, in Italia. Lo volete far cambiare voi, dando un padre dando due padri a un bambino, due maschi ad un bambino. Tutta sta roba che state facendo, state annullando. Beh, il criterio dei valori, la memoria, la storia. Ai gay? Se permette, sì. Ma stiamo scherzando? Ma non esiste. Le chiedo scusa per il disturbo e le auguro una buona serata. Gli dica al sito che cambi il suo di cognome. Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Non ce n'è Covid, non ce n'è Covid.